Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, dai che venerdì, ce l'abbiamo quasi fatta, sono le 11.08, Pietro Lacorte in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione per l'ultimo sprint, il sommario. Dai voce alla maratoneta che c'è in te, Carmen Consoli ci racconta Elettra. Fibrosi cistica, quanto siamo vicini alla cura del difetto di base? E siamo alla vigilia di un grande appuntamento, domenica ci sarà la maratona di New York e noi non potevamo certo lasciarci scappare l'occasione di parlarne con voi. Ci occuperemo proprio di maratona, in questi anni molte persone si sono avvicinate a questa disciplina, poi la maratona di New York nell'immaginario collettivo rimane, soprattutto per noi italiani, la maratona proprio con la lettera maiuscola, ma come sempre... bisogna affrontare la cosa con gradualità. Dottor Confalonieri. Ha detto gradualità con la R che mi è propria. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, direi che questa parola d'ordine che abbiamo trovato tante volte nelle nostre chiacchierate vale particolarmente per qualcuno che cominci con l'idea, col sogno, con l'obiettivo della maratona, che è qualcosa che non è necessario raggiungere, che può essere importante come stimolo, ma sicuramente, soprattutto in questo contesto, conviene partire piano. Insieme a noi in studio c'è anche un grande esperto di maratone, perché lui sì che davvero le ha fatte, è Marco Marchei. Marco, ciao. Buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro, Marco Marchei è direttore di una rivista che è un po' la Bibbia, Marco, di chi corre, Runner World, e leggo su uno strillo di copertina, e questo mi piace molto perché mi butterò anch'io, principianti, il periodo giusto per iniziare a correre, questo? E questo e magari anche la primavera, cioè le stagioni intermedie sono le migliori per una questione di temperatura ottimale per poter cominciare a fare un certo tipo di attività che in qualche maniera poi ti proietti in questo caso verso l'inverno con qualche sacrificio in più magari e per la primavera l'estate, insomma, scegliendo i giusti orari naturalmente. Dottor Confalonieri, io so che a lei piace fare le domande ai nostri ascoltatori, noi vogliamo, chi corre la maratona di New York è già New York, quindi non lo becchiamo più. A chi ci rivolgiamo oggi? A chi sta accarezzando l'idea di diventare un maratoneta? A chi sta incontrando qualche difficoltà? No, io mi rivolgerei a chi ci ha già provato. Saranno in tanti, hanno iniziato a correre, magari hanno continuato, magari sono arrivati alla maratona, oppure hanno smesso perché hanno avuto qualche problema. Quindi vorrei che ci raccontassero le loro storie. Quando e perché ho cominciato a correre, corro ancora e dove sono arrivato, oppure mi sono dovuto fermare o ho cambiato per questo motivo. Così partiremo proprio dalle esperienze dei nostri ascoltatori per renderci utili anche a tutti coloro che invece stanno pensando adesso, con questo autunno così mite, di cominciare davvero a correre. Marco, tu invece potrai essere d'aiuto ai nostri ascoltatori per offrire dei consigli da tecnico, ma anche e soprattutto io credo, dato che nel vostro giornale venite naturalmente a contatto ed è letto da un pubblico che è molto interessato a questo tema, di correggere un po' il tiro. Certo, il tiro va assolutamente corretto, soprattutto da parte di noi italiani che siamo malati di chilometrite e di maratonite. Io, la criptonite di Superman, insomma, qui è al contrario. C'è il rischio che appunto esagerando poi si fugga da quel benessere che questa trasmissione richiama e che comunque deve, a mio parere, entrare un po' nella cultura generale. Siamo malati di chilometrite perché la gente è convinta che si debba necessariamente diventare resistenti, si debba correre per delle ore e questo è sbagliato. Insomma, non c'è solo la maratona, anche se oggi parliamo di maratona. È diventato un deterrente per molta gente dal cominciare a correre. La gente ha paura che poi debba correre la maratona e non è così. 800 24 0024 se volete intervenire in trasmissione, 349 238 66 se invece preferite scriverci un messaggio. Una mela al giorno. E a proposito di maratona, c'è una maratoneta che sta correndo di città in città. Noi, che siamo i suoi fan, la chiamiamo Cantatessa, mentre il New York Times ama definirla una magnifica combinazione tra una rocker e un intellettuale. In linea con noi abbiamo Carmen Consoli, un regalo della vita, mi viene da dire. Carmen, ciao! Buongiorno! Come va? Bene, mi piacerebbe molto abbracciarti. ma grazie, sento questo abbraccio e mi sento riscaldata anche se a distanza. Senti Carmen, oggi esce il tuo nuovo CD, Elettra. La potenza, sì, e la forza dell'amore in tutte le sue sfaccettature raccontate in 10 brani, perché è questo sentimento il vero protagonista del tuo ultimo lavoro. È vero, esattamente, colto pienamente il senso dell'album. L'amore in tutte le sfaccettature, l'amore paterno, filiale, materno, spirituale, quindi platonico, l'amore per la propria terra e per le proprie origini. Un amore con la maiuscola. Un amore con la maiuscola è un amore che rega in sé conoscenza, spirito di sacrificio, passione, la passione che porta a non far spegnere nell'abitudine l'amore. Ma non soltanto l'amore verso una persona, l'amore verso ciò che si fa, l'amore verso le cose. Bisogna sempre impegnarsi, secondo me. Senti, è un impegno quotidiano, non è vero che è tutto scontato, non è vero che tutto... Assolutamente, è una palestra quotidiana. È una conquista quotidiana, e per conquistarci l'amore, perché sia con la maiuscola, ogni giorno dobbiamo fare delle piccole cose, le piccole azioni. Senti Carmen, tu continui a fare piccole azioni, ma soprattutto tu continui a scrivere testi, a lavorare, perché tu vivi per la musica e la musica ti dà vita. Ed è riuscita, ma mi sembra, proprio come sa fare un'amica, una compagna fedele, a fare un piccolo, grandissimo miracolo, a trasformare un evento doloroso in creatività e in motivo di gioia. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciugabeato tra le braccia di un tramonto. Carmen, mandaci una cartolina proprio dedicata a tuo padre, un pezzo magnifico. Sì, grazie. Da cui viene fuori anche un, se vuoi, un profilo ironico di tuo papà. Esattamente, lui era un uomo ironico, molto ironico, per dirla alla siciliana, proprio sarcastico. Buttava tutto a ridere, questa sua particolare tendenza a sdrammatizzare tutto e a elaborare tutto col filtro dell'ironia è stato uno dei più grandi regali proprio che la vita mi abbia fatto, cioè un padre così. È vero che tuo papà vi diceva quando muoio vi mando una cartolina? Certo, perché essendo anche lui poco pratico di internet, avrebbe potuto dire un'email. Sì. Però utilizzavo questa cosa. E poi quando muoio vi mando una cartolina. Era molto ironico, scherzava molto sulla morte e fondamentalmente mi ha insegnato che la morte può essere una grande sorpresa. Da tuo padre passo ad Elettra, che è il titolo del brano che dà il nome al tuo CD. E Carmen, devo dire che hai scelto una figura a dir poco impegnativa. La tua Elettra, tra l'altro, è una prostituta che offre al suo cliente, direi, non un'occasione di riscatto. Insomma, non è lì per essere salvata, ma per proporre a lui di cambiare vita, liberandosi dall'abitudine. Ma tu a questo termine dai un significato ben preciso. Amando bene, abbracciami alla luce. Carmen, liberarsi dall'abitudine, cosa vuol dire per te? Non l'abitudine bella, quella che ci fa godere di ciò che abbiamo, che ci fa svegliare la mattina, compiacerci di ciò che abbiamo costruito, della nostra famiglia, di una bella mattina di sole o di una bella mattina di pioggia, però di una bella mattina in cui celebrare la vita, dove è scandita dai nostri rituali, non la colazione, dalla serenità, dal fatto che siamo in salute, siamo felici, non abbiamo niente di cui lamentarsi. No, io parlo di un'abitudine al ristagno, cioè quella mancanza di evoluzione, cioè di cui parlavamo prima, cioè ciò che non dà l'amore per la vita, per le cose, per le persone, per i padri, per i figli, eccetera, eccetera, la chance dello studio, dell'evoluzione, di quel piccolo sacrificio quotidiano per poter sempre mantenere la lettera maiuscola. Senti, io ho iniziato l'intervista e mi è venuta fuori proprio dal cuore, vorrei abbracciarti perché il tuo CD è veramente un abbraccio, ci si sente accompagnati per mano e anche sorretti nell'esplorazione di questo amore a 360 gradi che tu tratti e canti in tutte le sue sfaccettature, anche l'amore che diventa drammatico, doloroso, un non amore. Tu parli in un testo di un tema drammatico come l'abuso sessuale, che però tu riesci a sviluppare con una sensibilità così unica che direi che dovremmo venire a scuola da te, perché devo dire che noi ho fatto tante puntate insieme a Alberto Pellai anche sull'abuso e devo dire che tu hai trovato le parole, la forza per descriverlo. La tua voce cambia proprio nella canzone, si trasforma proprio per interpretare questo dramma. L'idea di fare la cantante non è semplicemente l'idea di fare la cantautrice, è proprio il ruolo di interprete. Interprete non vuol dire semplicemente cantare le canzoni degli altri, ma fare un lavoro d'attore anche, cioè interpretare in prima persona un personaggio e cambiarsi, trasformarsi per essere quel personaggio. Richiamando una memoria emotiva, io non ho mai vissuto un abuso, per fortuna mia, però ho richiamato una mia memoria emotiva che mi ha portato a immedesimarmi con una storia che realmente mi è stata raccontata. Insomma, come a tutti voi succederà, noi siamo un po' catalizzatori di storie, di sfoghi, di aperture da parte di altre persone che cercano in qualche modo la, tra virgolette, compassione, nel senso la condivisione della sofferenza di ciò che hanno vissuto. Proprio ascoltando, devo dire, attivata emotivamente da questo tuo brano, io vorrei in qualche modo lanciare ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo di così intervenire, magari scrivendoci una storia di abuso, una violenza subita, anche una storia, perché no, di resilienza e di vittoria, e possono scrivercele essere benessere@radio24.it e noi dedicheremo proprio un'intera puntata alle vostre storie con i nostri esperti e, se lo vorrà, anche con Carmen Consoli, che proprio smuove, no? Fa trovare le parole e anche la forza di parlarne. Carmen, ma più che altro soffro un po' di certi schemi borghesi, no? Di ciò che per la borghesia è il concetto di reputazione. Cos'è la reputazione? Ciò che non si deve marchiare, e costi quel che costi, però i panni sporchi non si devono lavare quelli della famiglia. Un po' è come dire, il quadro di una caratteristica di noi italiani. Direi di chiudere con un soffio di spensieratezza lieve, che è l'atmosfera che io ho respirato, ma immagino tutti respirino ascoltando Marie Ti Amiamo, che è un testo scritto a quattro mani, perché essendo siciliani si ha anche la fortuna, oltre che a prendere tutto il calore e l'energia di questa terra magnifica, io sono siciliana al 50%, per cui mi sento molto vicina, si ha anche la carbone mi chiamo. Si ha anche la fortuna di vivere accanto, di avere un vicino di casa come Battiato. A notte il corpo della luna incanta, ma io l'ignoro. Appena il cielo si sveglia, profumano i giardini di Zagareggi e Gelsomini. Codici smarriti, linguaggi segreti, codici smarriti. Come stai? Carmen, ma come si fa? Come si fa a fare una cosa così bella? Mamma mia. No, sai perché? È una cosa naturale, è venuta fuori così. Sai che cosa? Che senti l'energia della terra, vero? Che si intrecciano i mondi che sembrano lontani, che invece tutti insieme, no, fanno la vita. Siamo alla ricerca di nuove vite, di generare nuove combinazioni tra le informazioni che derivano dal nostro DNA. Siamo nel totale abbandono dei cliché, dei retaggi negativi, per acquisirne altri e per combinarli con i vecchi, recuperarli, metterli da parte. Insomma, libertà assoluta, che non è assenza di limitazioni, attenzione. Assolutamente. Però comunque la possibilità di poter gioire con un collega, amico, di una cosa che ci accomuna, è la musica, quindi poter scrivere una cosa lasciando i nostri cuori liberi, senza chiuderci nello schema di strofetta e ritornello. Ecco. Senti, è stato veramente terapeutico. Io spero di poterti abbracciare, di averti qua in studio. Una volta che mai i tuoi impegni lo permettessero. E intanto grazie Carmen, un abbraccio, tanto amore, tanta vita, tanta energia. Un abbraccio anche a voi, a te soprattutto, e buona giornata. Grazie, buonissima giornata. Ci sentiamo presto. Un bacio. Ciao. Pronto soccorso. Dottor Confalonieri, quando viene Carmen Consoli... Sono molto emozionato da questa intervista, visto, davvero, rapito. Ho visto che sono rimasto rapito, sì. Allora, invece torniamo, non rapiamoci, rimaniamo coi piedi per terra perché corriamo, parliamo di maratona, lo facciamo insieme ai nostri amici da casa che ci stanno chiamando 824 0024. Alberto, da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ci racconti, Alberto? Noi la sentiamo bene, ma lei sta correndo? No, l'ho detto lontanissimo, ma non sto correndo. Io ho fatto, ho 42 anni, e fumavo due pacchetti al giorno, poi quando è nato mio figlio ho pensato di smettere di fumare, e piano piano ho cominciato a correre. Dopo un anno e mezzo ho fatto la prima maratona, e poi mi sono iscritto a New York. Altro anno, in questo periodo, stavo correndo a Central Park, sì. Che è un'emozione meravigliosa, perché lì... è proprio il tempio della corsa. Il tempio della corsa. Vado a New York. New York, sì, Central Park, sì. Lì corrono tutti, a qualunque ora del giorno, della notte. È veramente divertente. Insomma, i newyorkesi sono sempre di corsa. E adesso cosa si sta preparando? Per un'altra maratona? Sì, per Atene, domenica prossima. La maratona di Atene, quella l'ha vinto. Come Bambini, si sente, no? Alberto? Si sente pronto? Vuole approfittare dei nostri esperti per farsi dare l'ultimo consiglio? Ma ormai comunque sarebbe tardi. Ormai è fatta. Anche Marco Marchei mi ha fatto la stessa, mi ha fatto la faccia, come per dire. Ormai quel che è fatto. Ma volevo approfittare proprio di Marco. Il nostro amico Alberto dice proprio il tempio della maratona, no? New York. Adesso tu sei d'accordo? Ma sì, in realtà sì. Sono un po' critico sul fatto che noi italiani si vada a correre solo e soltanto a New York, però New York è sempre stato come città di fatto un punto di riferimento. La maratona da noi si è affermata quando il fenomeno maratona, quando il film Il Maratoneta mostrava Dustin Hoffman che correva intorno al Reservoir, al laghetto che c'è al centro di Central Park. E quindi io sono stato 31 anni fa il primo italiano a correre a New York, dove arrivai quarto. In quegli anni, insomma, si è conosciuta la maratona di New York, quindi anch'io ho un legame particolare con New York. Certo, ci sono altre maratone. A me fa piacere che Alberto sia andato a New York e abbia assaggiato il gelato. Buono questo gelato, ma adesso cambio gusto ed è andato ad Atene, che secondo me è l'altra maratona, una delle altre maratone, anche se bella dura. Bella dura, perché ci sono maratone e maratone, Marco? Sì, ci sono maratone decisamente filanti, scorrevoli, e altre più impegnative. Faccio qualche esempio, almeno tra quelle più note. Londra e Berlino, assolutamente percorsi assolutamente filanti, scorrevoli, veloci, e maratone come intermedie, come New York. New York non è una maratona facile da fare, ci sono diversi saliscendi, ma per esempio ci sono maratone impegnative come Boston o in questo caso Atene. Dottor Confalonieri, lei di maratone? No. Niente. Una piccolissima notazione. Ce la proviamo anche noi? Magari con l'aiuto di Marco possiamo cominciare. Ci facciamo aiutare da Marco? Obiettivo 5 chilometri, però non la maratona. No, obiettivo 5 chilometri. Questo 5 chilometri, segnatevelo, perché ritorneremo su questo tema che secondo me è molto importante. Com'è che si dice a Milano? Piuttosto che niente, ma piuttosto. Sì, ecco, sì, una cosa del genere. Io non lo so dire, ma ecco, iniziamo da lì. E poi volevo sottolineare un'altra cosa. Ho chiesto ai nostri ascoltatori di raccontarci la loro storia, perché hanno cominciato. L'inizio del nostro ascoltatore è tipico, è coinciso con la nascita del figlio e la decisione di smettere di fumare. Questa è una storia ricorrente, un momento di svolta nella vita, indipendente da quella che può essere la pratica sportiva o lo stile di vita, che ci porta a cambiare, ci porta ad iniziare anche Cruciani, un conduttore molto conosciuto di questa radio, ci ha proprio raccontato un po' di tempo fa che lui ha cominciato a correre proprio nel momento in cui sono nati i figli, e poi adesso lui corre anche molto, molto forte. Guarda, lo vedo dal vetro, ecco, che è lì. Andiamo a Lodi, ci aspetta Maurizio. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Io telefono, sono di Lodi, però telefono dall'autostrada, quindi... E niente, ho sentito questa trasmissione, intanto grazie per l'opportunità che mi date di poter esporre la mia esperienza. Io ho sempre corso, fin da bambino, ho sempre corso gare del CSI, così, e mi è sempre piaciuto correre. Sì. E adesso mi trovo a... io ho 55 anni, e da un anno non riesco più a correre perché ho problemi all'anca, così, e la mia paura, sì, non ho ancora fatto una risonanza, perché la mia paura è che mi dicono che adesso stavo aspettando che questo dolore passasse, ma non passa mai. E la mia paura è che mi dicano che non posso più correre, perché la stessa cosa è successa al mio amico, e mi ha detto, sono andato a fare la risonanza, e il medico, diciamo, l'ortopedico mi ha proibito di correre, mi ha dato la piscina. E, sì, dice, e così la piscina come se fosse una cosa, no, negativa, ma il dottor Confalonieri si arrabbia molto, anzi, perché la piscina anche quella, no, dà grandi soddisfazioni. Capisco che però per un maratoneta si sente un po' messo in castigo. Dottor Confalonieri, non possiamo fare previsioni sulla salute dell'anca del nostro amico Maurizio, ma... Però possiamo consigliargli sicuramente di fare l'indagine, non essere impaurito dall'indagine, perché prima di tutto viene il benessere personale, quindi capire cosa c'è, far passare il dolore e magari essere anche un pochettino ottimisti. Potrebbe essere una situazione transitoria e poi potrà riprendere gradualmente, magari non a correre ma inizialmente a camminare, a fare del trekking, reinserire gradualmente un po' di corsa, e non è detta l'ultima parola, insomma. Io credo che se gli obiettivi non sono eccessivamente ambiziosi, una volta risolto il problema clinico si potrà anche ricominciare a pensare allo sport. E intanto le voglio leggere un messaggio che arriva da Vincenzo da Teramo, che ci scrive: un anno fa, dopo una vostra trasmissione simile, perché ne abbiamo già parlato e qua ci sgama, ho iniziato a correre, ora faccio 5 km 3 volte alla settimana e ho perso 13 kg. Grazie. Allora, viva 800 24 00 24, continuiamo a correre. Iniziamo a correre con gradualità, soprattutto con testa. L'obiettivo non deve essere sempre solo la maratona. Oggi vogliamo cercare così di investire nella cultura della corsa. Noi la leghiamo sempre a questo traguardo, a questo obiettivo. Ci possono essere anche delle situazioni intermedie che danno grande soddisfazione e possono risultare allenanti, ma ne parliamo. 349 238 6666. Mercati, meteo e poi di corsa insieme. Essere e benessere. Ecco, senza fiatone, ma torniamo a parlare di corsa, perché ci stiamo allenando. Stiamo provando anche un po', mi sembra, a cambiare testa, vero, dottor Confalonieri? Sì, a cominciare a pensare un po' prima alla corsa, pensarla con degli obiettivi limitati, pensarla come strumento di benessere e non soltanto in funzione della maratona, che eventualmente potrà essere qualcosa che viene per qualcuno dopo. 800 24 00 24, questo è il numero per entrare in diretta. 349 238 6666, i messaggi, ve ne voglio leggere alcuni. Uno mi sembra molto tecnico, Marco, te lo passo. Faccio la maratona di Firenze, ho fatto 3 lunghi di 30 33 36, il quarto che farò 20 giorni prima, quanto deve essere? Questo è quasi un messaggio in codice per me, ma per i maratonetti... Il lungo è l'allenamento che in qualche maniera ti allena la distanza della maratona, quindi in progressione teoricamente si dovrebbe arrivare a ridosso dei 42 km. Il mio consiglio diretto è questo: siccome il lungo è sempre piuttosto faticoso, oneroso, anche mentalmente, io non conosco il livello del nostro lettore, ma tanto per stemperare un po' la fatica anche mentale, un buon consiglio potrebbe essere questo: i 20 giorni prima, mi sembrava di aver capito che 20 giorni prima, esatto, 20 giorni prima lui, anziché fare il classico lungo di 36, 38 o 40 km, può fare due uscite di 20 km, quindi la mattina 20 e 20 il pomeriggio, in mezzo magari ci mette anche un pisolino bello tranquillo, quindi due spuntini invece che una buffata, spuntini. Può spezzare, l'importante è che mentalmente non pensi di non aver fatto quel lungo. Lui l'ha fatto, lo ha sicuramente digerito bene e avendolo digerito bene sarà un ottimo allenamento, un ottimo viatico per la maratona di Firenze. Dottor Confalonieri, a lei invece giro il messaggio di un ascoltatore che ci scrive: 37 anni, scogliosi, iperlordosi, ipocifosi e poco tono muscolare. Vorrei iniziare a correre. Meglio fare prima una visita fisiatrica per sapere se è sconsigliata la corsa? Beh, la visita fisiatrica non la escluderei, però direi che è un messaggio estremamente interessante, innanzitutto perché la schiena è il punto critico di gran parte della popolazione che io vedo quotidianamente, quindi questo è un caso comune. E il consiglio molto sinteticamente è: benissimo iniziare a correre, però prima rimettiamo a posto la carrozzeria, cioè vediamo di capire esattamente quali sono i problemi e di integrare la corsa con un programma in palestra di potenziamento, di rafforzamento, di riequilibrio muscolare a livello della colonna. Così miglioreremo l'aspetto cardiovascolare, ma miglioreremo anche l'aspetto strutturale. Quindi Marco, bisogna stare attenti anche alla carrozzeria. Assolutamente. Io l'anno scorso ho corso la maratona di New York, 30 anni dopo quella mia esperienza, e quando ho deciso di farlo, quindi con grande anticipo a giugno, mi sono iscritto a una palestra per un periodo limitato, ho fatto 10-12 sedute mirate che mi mettessero in condizioni di riaffrontare uno sforzo che comunque è impegnativo, decisamente impegnativo, insomma. Certo, e se l'hai fatto tu che avevi un fisico allenato, insomma, già sì, abituato, io penso dentro. Anche alle persone che come me non hanno fatto mai nulla, quindi lì si tratta proprio invece di fare un altro lavoro molto più approfondito. Certo, io amo molto fare paragoni motoristici, si è parlato già, il dottor Confalonieri ha parlato di carrozzeria, c'è già il sedentario che non ha mai corso, è come se avesse, come se affrontasse un lungo viaggio con un'auto che ha 30 anni di vita e che ha magari 150 mila chilometri. Ovviamente prima di affrontare un certo tipo di viaggio deve portarla dal carrozziere, in officina, quantomeno a controllare se gli ammortizzatori, la convergenza delle ruote, le ruote stesse sono apposte, lo sterzo. La radio non importa, ma la carrozzeria è importante. Un altro messaggio, abbiamo detto bisogna in qualche modo prepararsi, lavorare, andare in palestra, ma tante volte si preferisce lavorare a casa e allora ci scrive un ascoltatore: il tapirulan può costituire un'alternativa alla strada nella preparazione alla corsa? Quando ho del tempo libero nella settimana sono quasi sempre con mio figlio, pensavo di approfittare delle ore del riposino o delle ore serali per correre in casa. Paolo. Mi sembra un'ottima idea. Il tapirulan va sicuramente bene, va bene a casa, va bene anche fatto in palestra, integrato con l'attività invece più mirata al potenziamento e al riequilibrio muscolare. Probabilmente comincerà col tapirulan, poi comincerà anche ad annoiarsi e si inventerà degli spazi per cominciare a correre anche fuori, il nostro ascoltatore, perché poi succede a quasi tutti così. Però per iniziare va sicuramente bene, anche perché ottimizza il problema del tempo e dell'organizzazione della giornata, che è un problema per tutti coloro che vogliono cominciare a fare attività fisica in genere. Andiamo da Renzo. Renzo, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti? Allora. Intanto saluto Marco Martè, che ci conosciamo abbastanza bene. E, niente, voglio raccontare la mia storia, che sono nato praticamente atleticamente 4 anni fa, nel 2005. Pesavo 98 kg e dopo 5 mesi circa di allenamento e una dieta ne ho persi 27. Beh, una bella botta, come una si dice botta, Renzo, esatto. Scusa. Da qui niente, ho iniziato a fare dell'attività sportiva durante questi mesi, cogliendo l'occasione del bel tempo la mattina, andando a correre a digiuno, che è, come molti sanno, è il momento migliore per perdere peso perché si bruciano i grassi. È vero, dottor Confalonieri? Lei ci fa sempre mangiare un po'. Sì, infatti, prima invece, dell'attività conviene comunque mangiare. Renzo invece corre a digiuno. Secondo me la necessità di avere i depositi di glicogeno muscolare pieni è fondamentale, una glicemia stabile durante la corsa è altrettanto fondamentale proprio per ottimizzare il consumo degli zuccheri e in seconda battuta il consumo dei grassi, e rimango un po' di questo avviso. Nel senso che non è che correndo digiuno si bruciano di più i grassi, no, Renzo ci ha detto questo. Correndo digiuno si distrugge di più i muscoli, per Renzo. Semplificare molto il discorso. Piano, però, Renzo, mi mangi qualcosa! No, non è questo il tuo. Ma allora che cosa vuole raccontarci? Perché io ho anche la strada e poi io Marisa da Udine, mi racconti? No, che tra le tutte le vicissitudini che sono successe, ho anche salvato la vita un podista, purtroppo, che è colto da infarto. La cosa che mi interessa dire essere seguiti da gente che ne capisce. Bravo, bravo, bravo. Marco, perché insomma la maratona... Beh sì, Abbiamo detto che è faticosa, ma anche correre così senza nessuno che ci ha fatto un po', no? il quadro della nostra situazione. In qualsiasi attività, se uno non ha mai scritto al computer o non sa come utilizzare una mail, rischia di fare disastri. Anche nella ragion di più, quando si fa un'attività fisica bisogna sapere come farla. Marisa da Udine, buongiorno. Marisa, finalmente una donna. Buongiorno a voi. Allora, io riguardo la maratona posso dire questo, che per me, cioè la parola maratona per me è poesia, e perché le sensazioni e le cose belle che io ho provato nei giorni che ho corso le maratone e anche nei giorni antecedenti, tutte le sensazioni, le aspettative, poi io ho sempre corso a un livello super amatoriale, ho iniziato a correre tardi, mi sono allenata da sola, quindi i miei tempi non erano veloci, però nel mio io avevo questo obiettivo di farla bene e ogni volta volevo migliorare, insomma limare il tempo di qualche minuto, e questo anche mi divertiva, perché seguendo anche i tempi, quando ci sono le tabelle non molto grandi dei chilometri che salgono, riuscivo insomma a vedere che ero in buon orario. Però diciamo che è molto importante sapersi così amministrare bene, e quindi allora ci vuole un ascolto interno e le sensazioni, e non magari c'è un momento, anche a volte più di un momento, se anche quell'euforia, quella voglia di accelerare, invece bisogna sapersi veramente benissimo gestire. Ascoltare e conoscere. Marisa, io la saluto, la ringrazio, scappo perché dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e voglio salutare anche Rosaria Consoli, maratoneta del gruppo sportivo Fiamme Gialle, che è già in linea con noi. Ciao a tutti. Ciao, andiamo a sentire il traffico e poi torniamo insieme. Essere e benessere. Rosaria Consoli, ciao Rosaria, in linea con noi. Ciao a tutti ancora. Allora Rosaria, tra l'altro io facevo due chiacchiere con Marco Marchei prima di entrare in onda, e lui mi diceva, l'anticipavo, che saresti stata in linea con noi nella seconda parte della trasmissione proprio perché ti stavi allenando, e ragionavamo insieme sulla presenza femminile nelle maratone, che in Italia è più ridotta rispetto a quello invece che succede nel resto del mondo. Rosaria, sì, come mai secondo te questo? Ma devo dire che comunque è tutto in evoluzione, anche in Italia, non sicuramente anche nel nostro paese le donne sanno sempre di più, anche perché più che altro adesso la corsa è interpretata anche come una moda, come andare a fare jogging, le signore che vanno a camminare, a correre per la salute, eccetera, ecco. Per la salute e anche perché la corsa modella, diciamo la verità. Ma... Bravissima. Perché aiuta. Fa bene. Il corpo, fa bene dentro e fuori, sicuramente. Senti, tra l'altro sappiamo che di solito in Italia si inizia a correre abbastanza avanti, no? Con l'età, Marco, vero? Sì, purtroppo è una delle nostre caratteristiche nel confronto con i Runners World internazionali con cui noi siamo collegati, i nostri omologhi, insomma, che sono 15. Noi abbiamo fatto una statistica e abbiamo visto che noi italiani siamo quelli che cominciano a correre più tardi, generalmente dopo i 30-35 anni. Abbiamo questo stile di vita che ci mette in condizione di generalmente di smettere dopo intorno ai 20 anni, insomma, dopo la maggiore età, soprattutto per i maschi, quindi di non fare più niente quando ci si dedica allo studio o al lavoro, si comincia a lavorare o si va all'università, salvo poi ricominciare dopo una dozzina d'anni, 10, 12, 15 anni, quando giocando a calcetto ci si rende conto che i muscoli sono pietrificati, che si ha il fiatone, che non si recupera, che c'è la pancetta incipiente, però insomma a quel punto i figli sistemati, certo, la carriera già a posto, si riprende, però all'estero non smettono mai in realtà. Rosaria però corre da 20 anni, pur essendo giovanissima, non è neanche la maternità in qualche modo scalfito, messo un po' in discussione la passione per la corsa. Sì, a me è successo il contrario, io ho iniziato a correre a 11 anni, ma diciamo per emulare così mio fratello, lui aveva iniziato a correre, io l'ho, l'ho seguito, diciamo così. Da allora, diciamo, questa passione mi ha completamente travolto. E come tu hai giustamente ricordato, neanche la maternità mi ha tra virgolette scoraggiato. Io subito dopo che ho partorito, dopo un mese ero già, lì in pista. Senti, Rosaria, è proprio il caso di dire che una maratona tira l'altra. La prossima per te quando sarà? Ma l'anno prossimo ci saranno i campionati europei, dove spero di fare un bel risultato. Vedrai che noi portiamo buono. Grazie Rosaria Consoli. Grazie, andiamo a Livorno. C'è Walter, buongiorno Walter. Buongiorno. Walter. Sì? Si sta allenando? Sì. E come sta andando? Piuttosto male. Io sono un principiante proprio dell'ultima ora. Ho 55 anni. Sì? La mia situazione è questa, non ho mai fatto nulla in vita mia. Purtroppo. Sta facendo, non è mai troppo tardi. C'era una trasmissione, si ricorda? Sono dimagrito 20 kg nell'ultimo anno e quindi ho cominciato a correre da 2 mesi. Come sta? Meglio? Sto meglio, però non riesco ad allenarmi, nel senso che faccio solo il tapirulà in palestra con il cardiofrequenzimetro sotto controllo, per vista l'età e vista il mancato allenamento. Ma perché non la sento contenta, Walter? Cos'è che No, è il tono di voce normale. No, ma la sento un po' perplesso, insomma, non hai i risultati che spera di avere. Ecco, sono arrivata. Io dopo 2 mesi non riesco sul tapirulà a incrementare la mia corsa. Non riesco. Allora, dottor Confalonieri, tiriamo su Walter, che secondo me sta andando benissimo, già il fatto che abbia iniziato, ma... ha perso 20 kg e ha cominciato. 2 mesi sono molto poco per giudicare un progresso, probabilmente ha iniziato un po' troppo forte. Torniamo alla parola iniziale: ha iniziato chiedendo a se stesso un po' troppo, quindi adesso sta adeguandosi a quanto richiesto all'inizio. Il momento che si sarà stabilizzato vedrà che i progressi saranno rapidissimi. Allora, tra l'altro, io sono molto contenta perché sfogliando la rivista, sembra piaggeria, un promo, eccetera, però sfogliando la rivista di Marco Marchei, Runner's World, ho scoperto che anche io, che sono assolutamente digiuna, ci sono tantissimi consigli per chi vuole cominciare. Quindi magnifico. Chissà se allora, e invece noi corriamo, per come sta facendo la ricerca, in linea con noi abbiamo il professor Luis Gaglietta del Gaslini di Genova, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lei, oltre al ricercatore, corre anche un po'? Nuoto. Nuota, ecco, allora vede, è subito simpatico al professor Confalonieri. Senta, professore, domani si chiude la campagna per raccogliere finanziamenti e sostegno per la ricerca sulla fibrosicistica. Andate sul sito. Io ho 30 secondi, sulla ricerca bisogna investire. Ci dica, professor Gaglietta, qual è il passo avanti che ha fatto oggi la ricerca per la fibrosicistica? Due cose, prima di tutto, essendo molto brevi. Uno è l'aumento che è continuo e progressivo delle conoscenze sulla malattia, in particolare sulla proteina mutata. Sì. E sul meccanismo con il quale le mutazioni causano il difetto. E è come paragonare questo a un motore rotto. Le conoscenze ci dicono qual è l'ingranaggio che si è rotto, quindi come possiamo intervenire, ripararlo. E le altre cose è tutta questa conoscenza incomincia a produrre dei risultati, e cioè ci sono delle molecole, dei potenziali farmaci, quindi, che sono usciti dai laboratori di ricerca e sono già in fase di sperimentazione su pazienti, dando in qualche caso anche qualche risultato, ma come sappiamo questo è un processo che richiede un po' di tempo per avere delle conferme. Grazie professore per la sua chiarezza e per queste buone notizie. Allora saluto il professor Gaglietta, Franco Confalonieri, Marco Marchei, grazie. Grazie a voi. E noi ci sentiamo domani per Questa casa non è un albergo. Il dottor Confalonieri torna venerdì prossimo. Senz'altro. Buona giornata a tutti da Nicoletta Carbone.